luna de Sigali e vestita Ragazzi, v'annunzio Jake Wallace, il cantastore del campo. La mia mamma, che farà se io non vorrò, se io non vorrò? Thank you. Mandatemi via, sono rovinato, son stanco di piccone di miniera, voglio l'altro, voglio l'altro via. La sua carta. Sopra un cuore come si porta un fiore, non toccherà più carte. E questo è il segno, se s'attardassi a togliere ogni catalo. Domani al campo tu spargi la voce. No! Ragazzi, siete buoni! Dallo, fuori, vieni qua, via, dallo, via! Un poker, nick, gettoni, elfo e lo! Ragazzi, fate largo, salute! A Mr. Ashby dell'agenzia Wells Fargo. Nick, portami da bere. del bandito da tre mesi l'ha posto non è molto riscosto i conte ruba come un gran signore e spagnuolo la banda di ladri la qui comanda e messicana che faccia gagliarda sputa pronta tutto state in guardia io mi sdraio sono stanco ho l'ossa rotte a tutti buonanotte cosa c'è? A Frenini Mrs. Rance, fra poco, no, faccia l'incidente, mi disperde, non ti disperde, ragazzo, e questi che lavora, mi compagnisco, i compagni, e sono i tempi, e solo se mai vede colpo, intende, Perché ti racconti le offese degli ubriachi e capisca che ti volla, brava, ti volla molto caldo. Regalías. auroras e urreas? Se li scegliete voi, la qualità non conta nulla, ognuno avrà per me il profumo della man che li tocca. Mi prego, andate in giro, ogni vostro sorriso è una consumazione. Ma la lingua, vedo la buonasera, sceriffo. Buonasera. Molto meglio. Questi sono omini e un'erba che fa il morire. La posta! La posta! La posta! La posta! La posta! Però, ragazzi, state attenti, se è visto sul sentiero un cieco di meticcio. Postiglione, conosci certa Nina, Nina Miguel Torena. Stasera ora mi risallaccio. L'avventuriera mi dice che sa il covo del bandito e che stanotte a mezzanotte vada alle palme. Quella Miguel Torrena è una canaglia, aspi non vi fidate. Vendette di donne innamorate, ad ogni modo ranz, tengo l'invito. Per fine papagallo siamo lì. Scusa, mi ci scusa la mia vittima. E poi senti, ma cosa mi sa di San Cino? Che cazzo da mio paese, che baratto la città. Come la chitti? Bene, tutto con ciò. Ci sono cicce, non cicce in tristi. Ciò che c'è, brutte nuove, su coraggio. E anche nonna se n'è andata. Uno straniero, non l'ho mai visto, sembra di San Francisco, ma chiesto whisky ed acqua. Whisky ed acqua, chi sono questi mostri? E quello che gli ho detto, ma la polca si deve il whisky schietto. Invento, gli aggiusteremo i ricchi. Sopra un altro mare. son messo in cammino. Attratto sol dal fascino dell'ora, e questo in sole non m'ha ingannato. Giocare il vostro nome. Thank you.